13 anni le cose non sono molto cambiate dalla fine di questo libro, perché da quel momento in cui finisce il libro, in verità Assange entrerà dentro un'ambasciata e poi dentro un carcere. Questa è stata la sua vita dopo quello che abbiamo raccontato. Questo libro serve a raccontare e far capire di più quello che fece Assange con l'organizzazione Wikileaks e anche tutte le domande, le perplessità, tutto quello che successe in quei giorni nelle grandi rivelazioni che fece Wikileaks. Nel senso che poi, anche se ci furono queste incredibili rivelazioni, non successe niente per poter cambiare le cose. Volevo ripercorrere un po' la storia allora di Assange, anche se è abbastanza nota, ma forse non Sì, abbastanza. certo. Assange prima del 2008-2009 era un personaggio completamente sconosciuto. Era un giornalista e un hacker. Aveva studiato giornalismo all'università australiana. Lui è australiano, oltretutto, non è né inglese né americano, come molti pensano. Dopo essere diventato, per aver creato tra i fondatori di Wikileaks, diventò anche il portavoce di Wikileaks, che è già una cosa strana, perché solitamente gli hacker non mostrano mai il loro viso, non sono mai persone che mettono il loro corpo per parlare delle cose, ma usano il digitale per farlo. Invece lui lo fece e da quel momento in poi divenne un po' la faccia riconoscibile di quello che succedeva. Quindi da quel momento in poi Wikileaks divenne in quei giorni una cosa estremamente popolare, tutti i più grandi quotidiani del mondo si unirono insieme per poter analizzare e pubblicare le informazioni che venivano date da Wikileaks. Però dopo, nel 2011, arrivarono le prime accuse, diciamo, inventate, costruite appositamente per distruggere la figura di Wikileaks. Quella più famosa è quella dell'accusa di violenza sessuale in Svezia, che poi si è rivelata essere tutta una montatura e una costruzione per bloccarlo a Londra in quel periodo. Però questo libro parla di quello che hanno fatto di Wikileaks di Julian Assange. Dopo però il caso è diventato solo il caso di Julian Assange nella sua figura, come uomo, come persona, perché adesso è un caso di violazione dei diritti umani. Infatti, in questa nuova edizione c'è la prefazione di Riccardo Nuri, che è portavoce di Amnesty International Italia, che tra l'altro dice che questo è un caso davvero straordinario che lui non ha mai incontrato, in cui c'è una sorta di coalizione di stati che sono USA, Regno Unito, Svezia, Ecuador e Australia contro una sola persona. C'è effettivamente una persecuzione incredibile, no? E questo è proprio vero. Ma qual è il nodo? Perché Assange è così pericoloso? È così pericoloso perché prima di tutto lui ha fatto le cose come vanno fatte, non è lui stesso una fonte, lui è il giornalista che ha ricevuto la fonte e l'ha pubblicata come dovrebbe essere il lavoro di tutti i giornalisti, quindi le accuse contro di lui sono infondate, perché quello che la persona che ha dato queste informazioni del governo americano, dell'esercito americano, è stato incarcerato per molti anni ed è stato graziato da Obama. Soltanto a un certo punto, che era Chelsea Manning. Quindi questa è un'accusa per una persona fatta in modo che tutti gli altri giornalisti capiscano cosa succede se fai una cosa del genere, se ti schieri contro i governi. Non entriamo in un campo di complottismo proprio, è proprio il lavoro del giornalista, quello di denunciare qualcosa che succede di ingiusto e lui viene punito per questo. Quindi c'è un pericolo forte di autocensura, a parte che oggi vediamo che i giornalisti sono veramente embedded, abbiamo proprio Sì. gli ultimi ritorni con le guerre che ci sono in corso oggi, che proprio ci danno l'idea di quanto il giornalismo sia Esatto. svilito e Naturalmente sminuito. Wikileaks, essendo un'organizzazione completamente indipendente, senza padroni, era più libera di muoversi, mentre adesso i giornali, purtroppo i quotidiani, hanno spesso dei privati che li gestiscono e quindi c'è meno libertà di espressione per i giornalisti e soprattutto si autocensurano preventivamente. Magari non gli succede niente se lo fanno, però preventivamente hanno paura di poi perdere quello che fanno, il loro lavoro, la loro quotidianità. Veniamo al graphic novel, la vicenda di Assange, io l'ho riletta, si snoda in questo libro con una grazia, una delicatezza che restituisce proprio questa umanità e anche questa semplicità di quest'uomo. Era un vostro intento, tuo e di Dario Morgante? Ma era l'intento di scrivere una storia di una persona che è della nostra generazione, che aveva le nostre stesse passioni, le nostre stesse riferimenti quando eravamo ragazzi, quindi di poter fare con la tecnologia, o per me con l'arte, chi è Dario con la scrittura, poter fare e rivelare, raccontare il mondo in una maniera alternativa, quindi poter fare le cose per fare giustizia delle ingiustizie. È un racconto molto delicato, in effetti, che racconta la vita proprio anche di Giuliana bambino, ci sono tante nuvole, ci sono tanti viaggi, ci sono tante ombre anche, no? Perché Assange parla continuamente con delle ombre attorno a lui che non esistono, che sono la sua coscienza, perché non deve essere stato facile per una persona fare quello che lui ha fatto, no? Sapeva a cosa andava incontro, non è che era così ingenuo che non sapeva che ci sarebbero state delle gravi conseguenze. Quindi noi abbiamo cercato di dare, 13 anni fa, con le poche informazioni che c'erano anche sulla vita di Assange, di ricostruire un po' anche un'intimità sua, una vita di una persona comune. Il libro, c'è una tua introduzione, Gli anni del Condor, c'è un riferimento chiaro a quel film che è stato un precursore, forse, che ci ha insegnato tanto, una prefazione, come abbiamo ricordato prima, di Riccardo Nuri, poi c'è anche una postfazione. Sì. La postfazione riguarda il racconto degli ultimi anni di Sheida Newman, che è un hacker, anche lei, pare sì, di capire. Esatto, è un'attivista australiana che fa tantissime cose per richiedere la liberazione di Assange in Australia, cercando di stimolare il governo australiano, visto che lui è un loro cittadino. Lei è stata molto utile perché ha fatto un po' il punto proprio da dove finisce la storia da fumetti fino a quello che è successo nei nostri giorni, che sono tutte più che altro il processo, le varie udienze e soprattutto capire in che condizioni si trova Assange dentro la carcere di Londra. Lui è proprio in una cella di massima sicurezza, un po' come in quelle nei film, 3 metri per 2, senza poter vedere mai nessuno, senza una finestra, senza nulla. Ok, quindi da tantissimi anni, quindi è proprio una violazione dei diritti delle persone. Certo, e poi c'è anche un contesto storico dell'era dell'informazione che parte dalla invenzione del telegrafo fino a Twitter, la cosa sì. Quindi è un libro completo per poter capire non solo la storia ma anche per la contestualizzazione. Siete soddisfatti di questa pubblicazione, direi? Sì, molto, siamo anche molto soddisfatti che sia ritornata nelle librerie, sì. Perché quando uscì era forse troppo presto, nel senso che ci sono tante cose che adesso noi diamo per scontate, anche tecniche proprio di quello che raccontiamo, invece nel 2011, che non sembra così lontano ma è lontano, le persone facevano anche fatica a capire esattamente cos'era Wikileaks, cosa avevano fatto e via dicendo. Però questo serve sempre per creare un contesto attorno a Julian Assange, questo libro, per capire di più chi è e non solo questa figura che abbiamo visto nei telegiornali.